Allontanatomi da lei, non osai più avvicinarla, sentendo che non aveva assolutamente niente da dirmi e che nella sua immensa buona volontà, quella donna meravigliosamente alta e bella, nobile al pari di tante grandi dame che salirono con impareggiabile fierezza al patibolo, non avrebbe potuto far altro, mancandole il coraggio d'offrirmi un bicchiere d'acqua di melissa, che ripetermi ciò che mi aveva già detto due volte. Troverete il principe in giardino. Ora, andare dal principe significava sentir rinascere sotto altra forma i miei dubbi. In ogni caso, dovevo trovare qualcuno che mi presentasse. Si udiva, alto a sovrastare ogni altra conversazione, l'inesauribile cicaleccio del signor di Charlieu, che parlava, dopo averne appena fatto la conoscenza, con Sua Eccellenza il Duca di Sidonia. A parità di professione ci si riconosce, e a parità di vizio anche. Il signor di Charlieu e il signor di Sidonia avevano immediatamente fiutato ciascuno il vizio dell'altro, che era per entrambi in società quello d'essere monologhisti, al punto di non sopportare la minima interruzione. Avendo capito subito che il male era senza rimedio, come dice un celebre sonetto, avevano preso la decisione non già di tacere, ma di parlare ciascuno senza curarsi di quel che potesse dire l'altro. Ne era scaturito quel confuso rumore che nelle commedie di Molière è prodotto da parecchie persone che dicono nello stesso momento cose differenti. Il barone, con la sua voce squillante, era d'altronde sicuro d'avere la meglio, di soverchiare la debole voce del signore di Sidonia, senza tuttavia scoraggiare quest'ultimo, visto che, non appena Charlot riprendeva un attimo fiato, l'intervallo era riempito dal sussurro del grande di Spagna, il quale, imperturbabile, aveva continuato il suo discorso. Avrei voluto chiedere a Charlot di presentarmi al principe di Grammont, ma temevo, sin troppo a ragione, che fosse arrabbiato con me. Avevo agito nei suoi confronti nel modo più ingrato, lasciando cadere per la seconda volta le sue profferte e non facendomi più vivo dopo la sera in cui mi aveva così affettuosamente riaccompagnato a casa. Eppure, non potevo certo addurre a mia scusante anticipata la scena che avevo visto svolgersi quel pomeriggio stesso fra lui e Jupien. Non nutrivo alcun sospetto del genere. È vero che poco tempo prima, siccome i miei genitori mi rimproveravano, imputandolo alla mia pigrizia, di non aver ancora scritto due righe al signor di Charlieu, li avevo a mia volta rimproverati con violenza di pretendere che accettassi delle proposte disoneste. Ma solo la collera, il gusto di trovare l'accento che più potesse turbarli, mi avevano dettato quella risposta menzognera. In realtà, sotto le offerte del barone, non avevo immaginato nulla di sensuale e nemmeno di sentimentale. Avevo lanciato quella frase ai miei genitori come una pura follia. Ma il futuro, a volte, abita dentro di noi, a nostra insaputa. E le nostre parole, credendo di mentire, disegnano una realtà imminente. Il signor di Charlieu m'avrebbe magari perdonato la mia riconoscenza, ma a renderlo furioso era il fatto che la mia presenza quella sera in casa della principessa di Grammont, come da qualche tempo in casa di sua cugina, sembrava sfidare la solenne dichiarazione «Non si entra in quei salotti se non per mio tramite». Grave colpa, delitto forse inespiabile, non avevo seguito la via gerarchica. Charlieu sapeva benissimo che i fulmini che gli brandiva contro le persone restie a piegarsi ai suoi ordini o incorse nel suo odio cominciavano, per quanta rabbia ci mettesse, ad apparire a molti come fulmini di cartapesta e non avevano più la forza di scacciare nessuno da nessun posto. Ma credeva forse che il suo potere, diminuito e tuttavia ancor grande, fosse rimasto intatto agli occhi dei novizi come me. Perciò ritenni poco opportuno chiedergli un favore ad una festa dove la mia semplice presenza sembrava un'ironica smentita alle sue pretese. Mi si avvicinò a questo punto un uomo abbastanza volgare, il professor E. era sorpreso di trovarmi d'Egremont. Non meno sorpreso ero io di trovarci lui, giacché mai s'era visto né mai si vide in seguito un personaggio della sua specie in casa della principessa. Aveva guarito il principe quando già gli erano stati amministrati i sacramenti da una polmonite virale e la riconoscenza, affatto particolare, che s'era così meritato da parte di Madame de Grammont, spiegava come mai, contro ogni usanza, fosse stato invitato. Poiché in quei salotti non conosceva assolutamente nessuno e non vi si poteva girare da solo all'infinito come un ministro della morte, nel riconoscermi aveva sentito per la prima volta in vita sua d'avere una quantità di cose da dirmi, il che, mentre gli permetteva d'assumere un contegno, rappresentava una delle ragioni che l'avevano spinto verso di me. Se ne aggiungevo un'altra. Per lui era di estrema importanza non commettere mai errori di diagnosi. Ora, il suo giro di corrispondenza era talmente vasto che non sempre ricordava con esattezza, quando aveva visto un paziente una sola volta, se la malattia avesse poi seguito il decorso da lui assegnatole. Forse il lettore non ha dimenticato che al momento del primo attacco era da lui che avevo portato la nonna, quella sera in cui stava facendosi cucire sulla giacca tutte le sue decorazioni. Dato il tempo intercorso, non ricordava più la partecipazione che in seguito gli avevamo inviata. «La vostra signora nonna è morta, non è vero?» mi chiese, con voce in cui una quasi certezza calmava una lieve apprensione. Ecco, del resto, sin dal primo istante la mia prognosi era stata decisamente infausta, me ne ricordo benissimo. Fu così che il professor E seppe, o seppe nuovamente, della morte della nonna e, devo dirlo a sua lode, anzi a lode dell'intero corpo dei medici, senza manifestare, senza provare forse alcuna soddisfazione. Gli errori dei medici non si contano. Di solito essi peccano d'ottimismo riguardo al regime, di pessimismo riguardo all'esito. Il vino, in quantità moderata, non può certo farvi male, in fin dei conti è un tonificante. Il piacere fisico, dopo tutto, è una funzione, ve lo concedo senza abusi, voi mi capite. In qualsiasi cosa, l'eccesso è un difetto. Che tentazione di colpo per il malato rinunciare a due toccasana come l'acqua e la castità. In compenso, se uno ha qualcosa al cuore, un po' d'albumina, eccetera, ha i giorni contati. Disturbi gravi, ma funzionali, vengono spesso attribuiti a un cancro immaginario. È inutile insistere con delle visite che non potrebbero arginare un male ineluttabile. Se il malato, abbandonato a se stesso, si impone un regime rigoroso e finisce col guarire o perlomeno col sopravvivere, il medico, vedendosi salutare in Avenue de l'Opéra da qualcuno che credeva da tempo al Père Lachaise, coglierà in quella scappellata un gesto di beffarda insolenza. Un'innocente passeggiata fatta sotto il suo naso, in barba alla sua autorità, non irriterebbe di più un presidente di corte d'assise che due anni prima avesse condannato a morte lo Spavaldo Bighellone. I medici non li coinvolgiamo tutti, ben inteso, né tralasciamo mentalmente alcune pregevoli eccezioni. Sono in genere più contrariati, più scontenti dell'invalidazione del loro verdetto che contenti della sua esecuzione. Questo spiega come mai il professor E, pur assaporando indubbiamente una soddisfazione di natura intellettuale nel constatare di non essersi sbagliato, riuscisse a non esternare altro che tristezza nel parlarmi della disgrazia che ci aveva colpiti. Non aveva alcun interesse ad abbreviare la conversazione che gli forniva un contegno e un motivo di stabilità. Mi intrattenne sul gran caldo di quei giorni, ma per quanto appassionato di letteratura, per quanto in grado di esprimersi in un buon francese, mi domandò: «Voi non soffrite di questa ipertermia?» Il fatto è che la medicina ha messo a segno alcuni piccoli progressi dai tempi di Molière nel campo della ricerca, ma nessuno nel campo del vocabolario. «La cosa più importante», aggiunse il mio interlocutore, «è evitare le sudorazioni prodotte soprattutto in ambienti surriscaldati da un simile clima. Potrete porvi rimedio se tornando a casa avrete voglia di bere con il calore, voleva dire evidentemente con bevande calde. Considerando in che modo era morta la nonna, l'argomento non poteva non interessarmi e recentemente in un libro di un grande scienziato avevo letto che la traspirazione nuoce ai reni perché elimina attraverso la pelle ciò che dovrebbe uscire per altre vie. Deploravo che, all'epoca della morte della nonna, ci fosse un caldo canicolare e non lo ritenevo estraneo a quell'evento. Non ne parlai al professor E, che tuttavia, di sua iniziativa, mi disse: «Il vantaggio di queste giornate calde, in cui la traspirazione è molto abbondante, è il sollievo che, per ciò stesso, ne ricevono i reni». La medicina non è una scienza esatta. Appiccicatosi a me, il professor E ambiva solo a non lasciarmi. Ma io avevo visto il marchese di Vaugoubert, intento a fare alla principessa di Guermantes, dopo essere indietreggiato d'un passo, grandi reverenze destrorse e sinistrorse. Ultimamente, grazie al signor di Norpois, avevo fatto la sua conoscenza e ora lo speravo disposto a presentarmi al padrone di casa. Le proporzioni di quest'opera non mi permettono qui di chiarire in seguito a quali incidenti di gioventù Vaugoubert fosse fra gli uomini del gran mondo uno dei pochissimi, forse l'unico, a trovarsi, come si dice a Sodoma, in rapporti confidenziali con Charlot. Ma se il nostro ministro alla corte di re Teodosio aveva alcuni difetti in comune col barone, essi non erano, rispetto a quelli dell'altro, che pallidissimi riflessi. Era in una forma infinitamente edulcorata, melensa e sentimentale che affioravano in lui quelle alternanze di simpatia e di risentimento attraverso le quali il desiderio d'affascinare e poi il timore non meno immaginario d'essere disprezzato o perlomeno scoperto facevano passare il barone. Rese ridicole da una castità, da un platonismo cui, da quell'ambizioso che era, aveva sin dai tempi del concorso sacrificato ogni piacere, e più ancora dalla sua nullità intellettuale, tali alternanze erano in ogni caso presenti nel signor di Vaugoubert. Ma mentre in Charlot le lodi più enfatiche erano tessute con eloquenza davvero sfavillante e si mescolavano agli scherni più sottili e taglienti, tali da segnare una persona per sempre, in Vaugoubert, al contrario, la simpatia veniva espressa con la banalità di un uomo di terz'ordine, un mondano, un funzionario, e le requisitorie, per lo più inventate di sana pianta come quelle del barone, con una malevolenza implacabile ma inintelligente, tanto più sgradevole perché puntualmente in contraddizione con quanto il ministro aveva detto 6 mesi prima e avrebbe ripetuto di lì a poco. Regolarità nel cambiamento che avvolgeva le diverse fasi della vita del signor di Vaugoubert in una sorta di astronomica poesia, sebbene, a parte ciò, nessuno facesse pensare a un astro meno di lui. Il saluto che mi rivolse non aveva nessuna affinità con quello che m'avrebbe indirizzato il signor di Charlot. Oltre ai 1000 vezzi, che credeva propri alla mondanità e alla diplomazia, Vaugoubert infondeva un che di sorridente, impertinente, sbarazzino, per apparire, da un lato, inebriato dell'esistenza, mentre dentro di sé non faceva che rimasticare le delusioni di una carriera senza progressi e minacciata di pensionamento, e, d'altro canto, giovane, affascinante e virile, mentre vedeva e non aveva più il coraggio di guardare allo specchio, le rughe fissarsi su un volto di cui avrebbe voluto serbare intatta la seduzione. Non che sperasse in effettive conquiste, il cui solo pensiero lo terrorizzava a causa delle possibili dicerie, degli scandali, dei ricatti. Passato da una dissolutezza quasi infantile a una rigorosa astinenza il giorno stesso in cui aveva pensato al Quai d'Orsay e concepito l'aspirazione a una grande carriera, evocava l'immagine d'una belva in gabbia che lancia in ogni direzione occhiate piene di paura e bramosia, ma vuote di intelligenza. La sua era talmente scarsa che, dimenticando che le piccole canaglie della sua adolescenza non erano più dei ragazzi, quando uno strillone gli gridava sul muso «La presse!», più ancora che di desiderio fremeva di spavento, credendosi riconosciuto e stanato. Ma, in mancanza dei piaceri sacrificati all'ingratitudine del Quai d'Orsay, il signor di Vaugobert, e per questo avrebbe voluto piacere ancora, aveva subitanei slanci di cuore. Dio solo sa di quante lettere inondava il ministero, quali personali accorgimenti metteva in atto, quanti prelievi effettuava sul conto di Madame de Vaugobert, della quale si pensava, a causa della sua corpulenza, del suo alto lignaggio, del suo aspetto mascolino e soprattutto della mediocrità del marito, che fosse dotata di eminenti capacità e che svolgesse lei le effettive funzioni di ministro, per inserire fra il personale della legazione, senza alcun plausibile motivo, un giovane sprovvisto di qualsiasi titolo di merito. Anche se poi, soltanto qualche mese o qualche anno dopo, sarebbe bastato che l'insignificante attaché sembrasse, senza l'ombra di una cattiva intenzione, colpevole di freddezza nei confronti del suo superiore, perché questi, ritenendosi disprezzato o tradito, mettesse nel punirlo lo stesso ardore isterico che un tempo aveva messo nel favorirlo. Muoveva cielo e terra per farlo richiamare, e al direttore degli affari politici giungeva quotidianamente un dispaccio. Cosa aspettate a liberarmi di quel tipo? Dategli una lezione nel suo stesso interesse. È uno che ha bisogno di ingoiare il suo bravo rospo. Quello di attaché alla corte di Re Teodosio era quindi un incarico piuttosto scomodo. Ma per tutto il resto, grazie al suo perfetto buonsenso d'uomo di mondo, Vaugobert era uno dei migliori rappresentanti del governo francese all'estero. Quando, in seguito, gli subentrò un uomo a detta di tutti superiore, giacobino, esperto in ogni campo, tra la Francia e il paese su cui regnava Teodosio, non tardò a scoppiare la guerra.